benvenuti in questa nostra nuova presentazione, iniziativa della Biblioteca Provinciale. Ecco, sconfigliamo sempre le carte, una volta siamo tre, una volta al cristallo, ma vedo che riusciamo a mandare i messaggi tempestivamente, quindi siamo contenti di vedere un bel pubblico questa sera con noi. Abbiamo degli ospiti nuovi, li presento. Allora, abbiamo il dottor Alamia e il dottor Franco Menapace, che sono i curatori del libro che viene presentato questa sera, L'eccidio di Cefalonia e Corfù. Questo è un tema che ha appassionato anche la biblioteca e avete anche potuto vedere quello che è stato il lavoro eseguito un paio di anni fa insieme ad Antonio Testini, che è qui in sala, e alla sezione Ampi di Bolzano. Ma soprattutto grazie alle memorie che all'epoca erano state appunto consegnate anche alla biblioteca da Bruno Bertoldi, che è un sopravvissuto appunto all'eccidio di Cefalonia e che è un nostro concittadino, abita qui a Bolzano ed è sempre attivo e presente quando si tratta di riportare alla memoria e di far conoscere appunto una parte della storia tragica che però ci ha coinvolto in tempi non tanto lontani. Questa sera abbiamo l'occasione di approfondire questo argomento con una nuova pubblicazione, con una nuova ricerca. Ringrazio tantissimo i nostri ospiti che hanno voluto appunto così coinvolgere la biblioteca in questa presentazione e quindi ci forniscono una nuova lettura, una nuova, così, il risultato di un'indagine su un tema che forse ancora non è stato così disvelato, diciamo, ufficialmente, ma presenta ancora tante cose da scoprire e soprattutto da divulgare. Vi ringrazio per la vostra presenza. Abbiamo come sempre preparato dei libri e un percorso bibliografico per leggere, per approfondire le tematiche che affronteremo. Grazie. Sì, sì. Bene, allora grazie. Beh, due parole di ringraziamento è doveroso alla dottoressa Valeria Tresa per averci, come dire, accolto per questa nostra presentazione. E, ecco, ringrazio chiaramente la Biblioteca Provinciale di Lingua Italiana e la sua direttrice, ripeto, di Valeria Tresa. Ah sì, si devo avvicinare. Ecco, è un libro, il nostro libro è partito da alcuni, ha avuto una incubazione di alcuni anni, perché anche raccogliere 14 testimonianze di soldati trentini non è stato semplice, perché a volte anche nel soldato, nel reduce, c'è questa, come dire, ritrosia, forse il termine fosse un po' esagerato, comunque non c'è, a volte succede anche nelle persone, in qualche persona che abbiamo riscontrato durante questo viaggio appunto della ricerca, questa difficoltà a consegnarci il materiale per poterlo divulgare. Va bene, comunque, fatto sta, è un libro che è diviso, dico brevemente un po' così l'impaginazione del libro. E la prima parte contiene un breve, così, percorso storico, non è un percorso scientifico, ma ha un carattere, un taglio divulgativo. Ecco, comunque si entra, come dire, a conoscere le vicende anche in anticipo, prima dell'invasione di Cefalonia e Corfù, e un po' prima proprio della dichiarazione di guerra del 40 alla Grecia e Albania. Va bene, poi la seconda parte, la parte centrale, è quella che forse interessa a noi maggiormente, perché proprio mette insieme queste testimonianze molto ricche, molto, come dire, molto molto sentite, insomma, da parte dei nostri reduci, tra cui chiaramente quella di Bruno Bertoldi. E ecco, e poi la terza parte è un aspetto, direi, più che altro istituzionale, ecco, sì, riguarda anche alcune vicende di giustizia e poi vicende che riguarda prettamente la vita associativa a livello così nazionale. Ecco, anzi, vorrei dirlo sono contento anche di dirlo, a tutti voi, anche che porto anche i saluti da parte della nostra Presidente nazionale, la professoressa Graziella Bettini di Arezzo. Va bene, ecco, la nostra sezione trentina di Trento Bolzano conta una settantina di iscritti, siamo la sezione italiana in tutto il paese la più ricca di reduci, di 20, cioè ci sono, diciamo, circa, sono 14, 13-14, ecco, e abbiamo così tra l'altro la fortuna anche chiaramente di avere sempre con noi accanto appunto Bruno, che ci dà una forza, uno stimolo, direi, che è difficile trovare le parole giuste per poterlo vedere e descrivere. Comunque Bruno c'è sempre e ci dà, come ripeto, una grande grinta, una grande determinazione a continuare a fare memoria. Ecco, questo libro proprio cosa vuol dire? Vuol dire, io ritengo, tre verbi essenziali, che è conservare, conoscere e ricordare. Cioè, la conservazione è una cosa, direi, obbligata, io credo, perché senza conservazione non si può conoscere e ricordare. La conservazione è un dovere, penso, un dovere che spetta alle associazioni e alle istituzioni che mettono da parte questi tesori di storia, che può essere anche una microstoria questa, ma però messa assieme fa la grande storia. Poi c'è la conoscenza, che attraverso la conservazione abbiamo la conoscenza che ci aiuta così a capire il passato, e forse capendo il passato si riesce speriamo ad evitare tragedie immani, come è successo le vicende della Divisione Acqui e altre vicende di guerra, e purtroppo oggi ne siamo ancora qui a parlarne. E poi ricordare, si tratta di ricordare oggi, cioè oggi stiamo vivendo, è giusto ricordare, portare questo passato, questo fardello oggi nel presente per poi trasmetterlo al futuro. Ma noi, che noi intendiamo una cosa, un fatto direi rilevante, un fare rilevante è proprio di trasmetterlo alle nuove generazioni. Noi come associazione ci adoperiamo, come dire, a divulgarlo, soprattutto dove? Nel mondo scolastico, perché il mondo giovanile, il mondo la popolazione giovanile è quella che poi ci rappresenta un domani, ecco. E penso che, in questi anni veramente abbiamo riscoperto, abbiamo visto che i giovani sono molto interessati a ascoltare il reduce, il soldato, piuttosto che leggere un libro oppure vedere un film, un filmato. Ascoltare la parola di una persona che ha partecipato agli eventi, direi che nei giovani fa molta presa, ecco, dà molta attenzione e capiscono anche proprio forse maggiormente proprio le tragedie che hanno, come dire, vissuto questi nostri soldati. E ripeto, anche per una parentesi, anche proprio per dare anche per se anche oggi che viviamo anche nel momento, anche magari nel momento anche di benessere, non entriamo comunque nel periodo storico anche particolare, comunque si vive ancora in un paese libero, democratico e repubblicano, e lo dobbiamo essenzialmente anche a loro. Ecco, e non voglio più di tanto divulgarmi, nel senso che la storia veramente ha bisogno sempre di noi. Io, o vediamo tutti noi, cioè la presenza, direi, numerosa questa sera, questo pomeriggio, è a testimonianza, cioè che forse tutti noi abbiamo bisogno di conoscenza, di sapere come sono accaduti anche certi fatti, per capirli, come dicevo prima, per capirli e per dare anche un valore a questa nostra conoscenza, ecco, di trasmetterla poi anche ai nostri giovani. E di fatti così efferati, così violenti, come è stata appunto la vicenda di Cefalonia e Corfù e delle altre isole ioniche, insomma, ecco. Comunque, dicevo, noi ci occupiamo in prevalenza proprio anche, come dire, di far conoscere queste vicende. Agli scopi proprio del nostro statuto è quello di ricordare, di perpetuare la memoria dei nostri soldati, ecco, per dopo chiaramente, per dopo trasmettere, come dicevo prima, e questo lo ribadisco più volte perché è molto importante, e quello è il mondo dei giovani, questo sì, perché dobbiamo veramente entrare in questo mondo che loro non conoscono, vivono un altro tipo di realtà, però bisogna guardarci un attimino indietro, perché credo che senza passato forse la nostra vicenda umana non ha molto proseguito, non ha molto strada. E con noi questo libro siamo in due, e poi chiaramente c'è Giovanni Alano, un giovane storico, un giovane ciclatore, che lui con la sua, come dire, conoscenza storica, come dire, ha maggiormente, come dire, dato una, come dire, ha completato il nostro libro, la nostra opera, anche, diciamo, perché con molta umiltà comunque vedo che è piaciuto, è letto, e noi ne siamo veramente anche contenti, insomma, del nostro tipo di lavoro. E bisogna dire una cosa, che questo libro forse non poteva, cioè non aveva modo di nascere se chiaramente i primi, gli autori veri sono i nostri reduci, quelli che hanno avuto anche la fortuna, diciamo, di ritornare a casa, ecco. Ecco, le vicende dell'Aquila per tanti anni sono rimaste, direi, nell'oblio più assoluto. E l'Associazione Nazionale di Giovani Aquila è sorta appena finita la guerra, nel 1946, poi si è, come dire, rinforzata anche come partecipanti nel 1953, quando sono ritornati a casa a Bari, al cimitero militare di Oltremare, dove sono sepolte tante salme dei nostri soldati. E poi ha avuto un percorso sempre, come dire, di portare proprio la memoria dei soldati, questo sì, di chi non ce l'ha fatta a tornare a casa, ma anche chi ha avuto, come dicevo prima, la fortuna di tornare a casa. E poi adesso siamo poi anche le nostre, diciamo, noi siamo nuove generazioni, nel senso che io sono figlio di un reduce, ecco, cioè, si raccoglie un po' il testimone dei nostri vecchi, tra virgolette, ecco. È chiaro che l'associazione comunque è dinamica, nel senso che ci vogliono anche forze fresche, si spera anche nei nipoti, e via dicendo, insomma, bisogna veramente che questo tipo di associazioni, con tante difficoltà, possano, come dire, sopravvivere e mantenere, come dicevo prima, la memoria storica, che non vuole essere, e dopo concludo, che non vuole essere una semplice celebrazione del passato, ma proprio di fare memoria, cioè quella memoria che entra dentro di noi e si viene a capire proprio l'immane tragedia che ha avuto Bruno, e come tanti altri nostri soldati che hanno, come dire, sul campo visto la violenza, la brutalità, la cattiveria verso in questo momento. E bisogna anche ricordarlo che comunque noi eravamo un popolo, un esercito invasore, insomma, in questo momento, in quel tempo, cioè noi eravamo invasori della Grecia, questo non bisogna anche ricordarcelo. Ecco, comunque noi abbiamo la fortuna stasera di avere Bruno, che ci accompagna da molto tempo, che da sempre con noi, ecco. E niente, volevo appunto ancora ringraziarvi veramente della vostra presenza, che ci dà, come dire, anche la forza, il sostegno di continuare a portare avanti la memoria storica. Grazie molte, e ringrazio ancora la biblioteca provinciale, la dottoressa Trevisan e tutto il suo apparato, perché anche il dottor Oru, eccetera, insomma, che ci ha veramente, come dire, degnamente ospitati qui a Bolzano. E poi, niente, adesso passo la parola a Giovanni. Grazie. Grazie Franco. Farò una breve esposizione dei fatti principali narrati in questo libro. Ringrazio Franco, e ammetto anche di essere un po' emozionato nel dover esporre dei fatti, avendo qua vicino qualcuno che questi fatti li ha vissuti direttamente, quindi è un po', fa un effetto strano, appunto, esporre qualcosa letta nei libri vicino a qualcuno che li ha vissuti. Comunque cercherò, appunto, di fare questo. senza troppo dilungarmi e dando poi la parola appunto al protagonista di questa serata. Quindi iniziamo un po' appunto dall'inizio di questa storia, che è il 10 giugno del 1940, quando appunto Mussolini fa la dichiarazione di guerra alla Francia dal balcone di Piazza Venezia. La folla, la gente è in delirio, però la gente non ha ancora capito il disastro verso cui si sta andando incontro. Questo perché? Perché l'Italia non è preparata allo sforzo bellico. Non è preparata allo sforzo bellico da un punto di vista militare, da un punto di vista strategico e neanche da un punto di vista morale, perché gran parte dei soldati che combattono in questo esercito non capiscono bene le motivazioni di questa guerra. E quindi inizia questa avventura bellica, che appunto condurrà al disastro. Inizia con l'attacco alla Francia, che a fatica si concluderà in maniera vittoriosa, dato che la Francia era già stata comunque provata dall'attacco tedesco. Dopo la vittoria sulla Francia, il fronte si sposta nei Balcani, il fronte greco-albanese, che è una guerra alla Grecia, che inizia nell'ottobre del 1940 e si concluderà appunto nell'aprile del 41. In questi mesi l'Italia, l'esercito italiano, è ancora convinto di vincere rapidamente e di vincere contro un paese arretrato e di vincere facilmente. Questo si rivelerà ancora una volta un grave errore, perché appunto l'esercito greco e la guerra in Grecia si trasformerà presto in una guerriglia che sarà molto logorante per l'esercito italiano, e ancora una volta toccherà ai tedeschi risolvere questo conflitto attraverso le superiori forze, le superiori armi che questo ha a disposizione. Quindi nell'aprile del 41 viene firmato l'armistizio, la Grecia si arrende e inizia l'occupazione italiana in Grecia. L'occupazione italiana in Grecia viene gestita appunto dall'undicesima armata, che impiega circa 170.000 uomini, è al comando del generale Carlo Vecchiarelli, e all'interno dell'undicesima armata sta anche la divisione Acqui. La divisione Acqui è composta da circa 12.000 uomini e occupa le isole dell'Egeo. L'isola dell'Egeo è appunto ha come comando generale nell'isola di Cefalonia. È comandata dal generale Antonio Gandin. È comandata appunto dal generale Antonio Gandin, e vediamo che l'attività principale della divisione Acqui nei mesi che vanno dall'aprile del 41 fino al settembre del 43 è di presidio, quindi non è impiegata in scontri armati intensi, ma vive in uno stato di relativa tranquillità. Ovviamente è in guerra, ma non si trova ad affrontare ad esempio la guerriglia partigiana, che è molto attiva invece sulla terraferma. Quindi è un periodo relativamente tranquillo fino appunto ai tragici eventi del settembre del 1943. L'8 settembre del 1943 viene firmato l'armistizio, e da lì tutto ciò che ne deriva, quindi il caos totale a livello istituzionale, a livello militare, appunto perché tutte le forze militari presenti nelle varie zone di guerra non ricevono adeguati ordini, non ricevono comandi dai vertici militari che sono presenti in Italia. Quindi l'esercito italiano è proprio in uno stato di sfaldamento, le truppe sono abbandonate a se stesse. Contemporaneamente invece l'esercito tedesco è molto organizzato ed è molto preparato, perché già aveva intuito nei mesi precedenti che era molto probabile una defezione da parte italiana, quindi aveva progettato un piano, il piano Axe, che aveva proprio come obiettivo principale il disarmo nel più rapido tempo possibile delle truppe italiane. Ciò che avviene all'indomani dell'8 settembre è in maniera anche brillante, perché nel giro di pochi giorni l'esercito italiano viene disarmato, e di conseguenza molti dei militari, la gran parte dei militari italiani viene convogliata nei campi di concentramento presenti nelle varie zone del Reich in Europa. L'undicesima armata seguirà l'andamento di gran parte dell'esercito italiano, quindi il generale Vecchiarelli cercherà all'indomani dell'8 settembre di trattare con i vertici tedeschi una resa onorevole, cercherà di ottenere anche lui il rimpatrio delle forze armate italiane, ma si renderà ben presto conto che questo è impossibile, perché i tedeschi sono determinati nel rimpatriare l'esercito nel portare l'esercito italiano appunto nei campi di concentramento e di disarmarlo. Quindi il generale De Chiarelli all'indomani dell'8 settembre, già il 9, consegnerà di fatto l'undicesima armata ai tedeschi. Però vediamo che qui avviene qualcosa di diverso nell'isola di Cefalonia, perché nell'isola di Cefalonia innanzitutto le forze italiane sono preponderanti rispetto alle forze tedesche, quindi sono la maggioranza, e inoltre data anche la posizione geografica, il generale Antonio Gandin ha più tempo anche per cercare di trattare con le forze tedesche. Il generale Gandin gode anche di rispetto all'interno dei vertici militari tedeschi, quindi nei giorni successivi all'8 settembre cercherà di trattare con i tedeschi. Cosa tratta? La volontà del generale Gandin è quella di riuscire a ottenere il rimpatrio della sua divisione a condizioni onorevoli. Questo è quello che vuole. Dall'altra parte però i tedeschi sono determinati anche lì al disarmo totale della divisione Acqui. Questo è l'ordine che è partito da Berlino e questo è quello che bisogna ottenere. Quindi nei giorni successivi ci saranno diversi stadi delle trattative. A volte sembrerà appunto che i tedeschi siano disposti, disponibili a concedere alcuni punti, ad esempio il mantenimento delle armi leggere o il mantenimento di un determinato tipo di armamenti, però di fatto alla fine si torna sempre al punto di partenza, cioè il disarmo totale della divisione. A questo punto il generale Gandin si trova in una situazione molto delicata, perché da una parte deve riuscire a mantenere l'onore della sua divisione e dall'altra parte appunto deve cercare di trattare con i tedeschi. Di conseguenza ci saranno giorni di grandi dilemmi per lui, e cercherà anche di riuscire a tenere sotto controllo la sua divisione, dato che la sua divisione è divisa al suo interno, scusate il gioco di parole, nel senso che c'è una parte, vuoi minoritaria che sia, che però alza molto la voce e vuole arrivare allo scontro con l'esercito tedesco. Ci sono diverse parti, specialmente dell'artiglieria, che vogliono arrivare allo scontro con i tedeschi, perché si rendono conto che l'alternativa è il disonore per la loro armata oppure essere inviati nei campi di concentramento. Quindi non ci sono, lo scontro sembra l'unica alternativa possibile per questa parte della divisione Acqui. In questo modo, alla fine di tutto ciò, arriverà finalmente un ordine chiaro dall'Italia. Nella notte fra il 13 e il 14 settembre, finalmente arriverà al generale Gandin l'ordine di non cedere le armi e quindi di combattere contro i tedeschi. Il 15 settembre 1943, quindi, si arriverà allo scontro con l'esercito tedesco. Lo scontro durerà all'incirca sette giorni in cui inizialmente l'esercito italiano, la divisione Acqui, sembra avere la meglio sulle forze tedesche. Successivamente però la maggiore disponibilità di armi, la disponibilità anche di un'aviazione molto potente da parte dei tedeschi renderà praticamente impossibile la resistenza per la divisione Acqui. In questo modo appunto il 22 settembre il generale Antonio Gandin darà la resa ai tedeschi, e da qui in poi inizia quello che definiamo appunto l'eccidio di Cefalonia. Durante i giorni di combattimento, sono giorni di combattimento, quindi i soldati muoiono sul campo di battaglia da una parte e dall'altra, però nel momento in cui vediamo che il generale Gandin offre la resa inizia appunto il massacro, perciò sui soldati inermi l'esercito tedesco si vendica, perché gli italiani agli occhi dei tedeschi sono dei traditori, e quindi come traditori vanno, non c'è un concetto di pietà, non c'è il concetto di prigioniero di guerra, per i tedeschi sono traditori e di conseguenza vengono massacrati in molti proprio sul campo di battaglia, malgrado questi si fossero già arresi. Per gli ufficiali il trattamento è ancora più spietato, perché vengono considerati direttamente responsabili per essere arrivati allo scontro. Perciò tutti gli ufficiali, proprio per ordine di Hitler, dovevano essere fucilati. Gandin verrà appunto fucilato e gran parte di questi ufficiali verrà ucciso proprio nell'isola di Cefalonia. Quindi appunto vediamo quello che è successo e vediamo che alla fine sul campo di battaglia rimangono, fra il campo di battaglia, morti nei campi di concentramento e morti anche durante il trasferimento sulla terraferma, si contano circa 2500 morti. Uno dei grandi problemi storici dei fatti di Cefalonia è anche quello legato ai morti, perché purtroppo, cioè, negli anni ci sono stati molti cambiamenti, molte stime che sono cambiate notevolmente da il numero che è stato raccontato fino a pochi anni fa e il numero che è adesso considerato ufficiale. Un numero ufficiale credo non ci sarà mai, ma non è questo comunque il punto della vicenda di Cefalonia. Ed è quello che appunto noi notiamo attraverso questi fatti, sia appunto i drammatici eventi che sono successi sul campo di battaglia, possiamo notare come questa divisione sia stata di fatto abbandonata a se stessa da parte dei vertici, che alla fine si sono disinteressati o comunque non erano nelle condizioni di poter salvare almeno questa divisione del proprio esercito. Inoltre, un'altra delle questioni è proprio il fatto della giustizia militare, perché i fatti che succedono a Cefalonia, finita la guerra, si cercherà di fare giustizia relativamente ai fatti di Cefalonia. Quindi vediamo che a Norimberga ci fu il primo processo nei confronti di alcuni responsabili di questi eventi, tra cui appunto il generale Lanz, che era colui che guidava il 22esimo corpo d'armata e che era responsabile militarmente dei vertici tedeschi in questa zona della Grecia e dell'Egeo. Il generale Hubert Lanz inizialmente viene condannato a Norimberga, ma successivamente viene amnistiato e alla fine farà pochi anni di prigione. Successivamente ci saranno altri processi civili, ma in tutti questi processi civili alla fine non ci saranno mai delle condanne esemplari o delle condanne che effettivamente puniscano coloro che si sono macchiati di questi reati. Ci furono dei processi sia in Italia all'indomani appunto della guerra, anche questi vennero archiviati, i responsabili o vennero assolti o infatti vennero archiviati. Anche lì ci sono dei punti di domanda, nel senso, perché vennero archiviati, e anche lì bisogna contestualizzare nell'ambito della guerra fredda cosa era successo, i cambiamenti geopolitici che si erano verificati in Europa con il termine della seconda guerra mondiale, e quindi Germania e Italia, che adesso comunque stavano dalla stessa parte nell'ambito appunto del patto atlantico, quindi per convenienza pare che su certe cose non ci sia approfondita la questione della giustizia legale e militare. Altri processi appunto vennero fatti negli anni 60 e anche recentemente negli anni 2000. La conclusione è sempre la stessa, che comunque quasi nessuno ha pagato e le uniche condanne sono molto recenti e sono appunto per gli esecutori materiali di alcune fucilazioni di questi massacri, condanne che sono state appunto espresse nei confronti di uomini che ormai avevano già 90-95 anni, quindi ci possiamo rendere conto di comunque l'efficacia che possono avere queste condanne. Questi sono un po' i fatti detti in maniera molto veloce, spero in maniera abbastanza chiara, relativamente a Cefalonia. Poi adesso ovviamente, se abbiamo qua Bruno Bertoldi, vuole raccontarci dalla sua viva voce cosa ha vissuto lui, penso che possa rendere anche meglio quello di cui stiamo parlando questa sera. Grazie. Bene, allora grazie Giovanni per l'esposizione storica. Ecco, prima di passare la parola a Bruno, che non voglio portare via il tempo, caro Bruno, ma volevo dire che nel 38 la divisione, l'ex Brigata Arpi, perché prima si chiamava Brigata Arpi, è stata, come dire, sciolta nel 1926, e devo dire una cosa, la Brigata Arpi è stata una delle prime truppe a entrare a Trento liberata il 3 novembre del 1918. E al ponte dei cavalieri, in testa c'erano i cavalieri di Alessandria e subito dietro c'era la Brigata Arpi. e lì vicino c'era un certo Piero Calamandrei, tra l'altro, che è ricordato anche con una lapide che a Palazzo Thun a Trento, dove c'è la sede del municipio. La Brigata Appia era presente anche a Trento, i giorni di Trento liberata, che poi chiaramente le truppe avanzavano verso nord, verso Bolzano. Ecco, e poi un'ultima cosa, anche importante, appunto nel 38 è stata ricostituita con divisione Acqui, è stata rivista, diciamo, nei numeri, la divisione, con due reggimenti, 18esimo e 17esimo, e nel 38 a Merano c'era la caserma militare, che adesso è sede, mi sembra, dell'Agenzia delle Entrate, c'era la caserma militare, e militare la caserma proprio della, c'era Villa Acqui, che c'è ancora, dove c'era anche l'Agenzia delle Entrate a Merano, infatti il libro riporta anche la foto dell'Agenzia delle Entrate con la ex Villa Acqui, e poi a Silanto c'era il campo di addestramento appunto delle truppe dell'Acqui. Ecco, nel 38, dopo da lì sono partiti nel 41 più che altro, per la volta dell'Albania, per dopo sbarcare a Cefalonia, a Corfù e nelle altre isole, in totale erano sette isole ioniche, ecco. Santa Maura, c'era Paxos, Zante, Itaca anche, che è lì vicino, oltre che Cefalonia, Corfù. Va bene. Allora, io non voglio portargli a tempo, tempo importante, a Bruno che ci racconta. Bugatti ha spiegato. Ma te parti. Allora, mi potrei solo dire a questa gente come mi trovo salvare, che certo, sono ancora qua. Questo sì. Eh? Quello. Certo. È un problema. Allora, la storia della divisione, la fine che ha fatto, questi ve l'hanno raccontato. Noi avevamo la divisione che era comandata da due generali, un generale di divisione e un generale di brigata. È una storia che non sarà mai chiusa, quella di Cefalonia, perché conti, morti, vivi, nessuno lo sa di preciso. Sa solo che eravamo 11.500 persone comandati da due generali, e alla fine fra i 4.000 fucilati, 500 ufficiali, i due generali, mi sono stato un fortunato perché fa un autista del generale di brigata Gerzi, il comandante era il generale Gandini. La fine che hanno fatto Gandini nessuno lo sa, perché la notte del 22 settembre del 43 fu prelevato da un pancito che si era rifugiato là, Cheremies, portato via, dicono che l'abbiano imbottito di sassi, legato col risticolato, portato in alto mare e affondato, perché non è più stato trovato. Invece il generale che facevo io l'autista, eravamo in un fortino, in un posto chiamato la casa del dottore, era una tenuta di un greco, là io mi sono salvato perché ho trovato la fortuna, una fortuna che la pattuglia che mi ha preso il prigioniero, perché dentro il fortino c'era tutto il comando, compreso il generale di brigata Ghezzi, il tenente colonnello, un capitano, con telefonisti, 16 persone. Io dentro il fortino non ero, mi ero nascosto fuori, dietro un muro, perché continuavamo a essere bombardati dagli aerei, e nel momento che il generale ha capito che ormai dovevamo uccidersi e scappare, ha chiamato: prendete l'autista, prendi la macchina che scappiamo, perché eravamo già circondati. Io stavo uscendo per scendere dalla strada dove avevo nascosto la macchina sotto gli ulivi, è stato fuori una pattuglia di tedeschi, erano già a 100 metri dal comando. Uno col machine pistole avanzava, di dietro c'erano gli altri due, uno portava un mortaietto da trincea, un altro le due cassette di munizioni, e continuavano a dire al primo col machine pistole: uccidi, tira, spara. Invece quello non aveva il coraggio di sparare. Io con le mani alzate gli andavo contro, e quando siamo arrivati a 6-7 metri, io gli dissi: mai anche il coraggio di ammazzarmi, ho una mamma anch'io a casa. Quello mi dice: ma di dove sei? Ho detto, un trentino dell'Alto Adige, brutto porco, ma detto, un trentino proprio, brutto porco, mi hai anche sparato contro. Beh, io ho fatto il mio dovere, dovevo sparare contro. E allora mi ha detto, mi ha fatto girare, mi ha dato due calci nel sedere e mi ha detto scappa. E io da quel momento sono rimasto vivo, perché il generale che era venuto sulla porta a gridare Bertoldi prendi la macchina che scappiamo, come l'ha visto l'ha fucilato e caduto per terra. E io sono scappato e man mano che uscivano dal fino gli altri venivano eliminati, praticamente tutti gli scientifici sono stati ammazzati e sono stato vivo io e sono ancora qua. Però la sofferenza più brutta dopo, quando ho fatto la prigionia, perché dal momento che io sono scappato, quando il tedesco, perché questo tedesco, tornando indietro, nel 1937 eravamo a Verona soldati insieme, lui era un bolzanino, abitava qua sopra Santa Maddalena e io abitavo nel Trentino, eravamo diventati amici. E la Natale, verso la settimana di Natale del 1937, nel 37, perché la primavera del 38 eravamo già mobilitati. Vennero due signori, lo presero a Verona, gli fecero smettere la divisa italiana e se lo vestirono in borghese e se lo portarono via. Questo successe perché i genitori che abitavano qua sopra Santa Maddalena optarono per la Germania. Andarono in Germania e dissero: io a Verona ho un figlio che fa il soldato, perché allora bisognava fare 18 mesi di soldato a 40 centesimi al giorno. Questo ragazzo anche lui faceva il soldato come lo facevo io. Però io a un certo momento ho visto che lui non c'era più, ho chiesto e mi hanno detto l'hanno portato via. I suoi genitori avevano optato, erano andati in Germania e là hanno avvisato la pubblica chi era, non so, sono venuti dei signori a Verona, l'hanno prelevato e l'hanno portato via. Questo è stato nel 37, nel 38, fra il Natale del 37 e il 38, e nel 43, in settembre, me l'ho trovato davanti che mi fucilava. Era vestito con la Wehrmacht, non era delle SS, era della Wehrmacht. E così mi sono salvato. Cioè, però dopo da quel fatto là, io mi sono nascosto in una casa greca, perché quando quel tedesco là mi ha dato del porto, mi ha detto scappa, io ho fatto 7 km di corsa e sono andato nella casa dove avevo la mia residenza, perché abitavamo tutti nelle case della gente, dei greci. E là i greci mi spogliarono, mi diedero dei vestiti borghesi e mi tennero nascosto 7 giorni in casa, mi portavano da mangiare e a un certo momento la mattina un ragazzo che mi portava la colazione mi disse: sai Bruno, ieri sono passate una pattuglia di tedeschi qua, ha messo fuori dei cartelli che se non ti presenti bruciano il paese. Allora quando lui mi ha detto così, gli ho detto: guarda, tira fuori la mia divisa che io domani mattina vado e mi presento al comando, perché ormai avevano fatto la strage, avevano fucilato tutta la gente e avevano smesso di fucilare, perché quel battaglione che era stato portato là per ammazzare la gente, finita la strage, li caricarono sulle macchine per riportarli in Germania, dove in Germania invece non sono arrivati perché sono stati attaccati dai partigiani in Croazia, da quelle parti lì, e lì sono stati dimezzati. È stato ammazzato anche il comandante, i partigiani, è stato il comandante e anche questo ragazzo che mi ha salvato me, là è stato fucilato con questa gente. Allora io, presentandomi ai tedeschi, mi presero, mi misero in una stanza, eravamo diversi italiani e continuavano a venire con un documento che volesse per firmare e vestire la divisa tedesca. E questo io mi sono sempre rifiutato, guerra non ne volevo più fare. E questo maresciallo che aveva questo compito gli dissi che poteva insistere quello che voleva, ma io di guerra facevo il prigioniero di guerra. Allora mi hanno, per due volte mi hanno portato in porto per portarmi via, perché l'isola di Cefalonia era distante dalla terraferma. Due volte mi hanno messo sulla nave, tutte le due volte mi hanno tirato giù. La terza volta, perché le due navi che sono partite sono state affondate e sono andati tutti morti. E la terza nave è riuscita a passare la terza e c'ero su io. Allora Atene mi hanno tenuto un po' di giorni sotto pressione, là non c'era niente da fare. Una mattina mi hanno messo sul treno e mi hanno fatto attraversare l'Europa e mi hanno fatto arrivare in Polonia, a Leopoli. Leopoli è una disperazione, là non so quanti eravamo dentro, là non si perdeva, si dormiva sulla terra come le bestie, senza mangiare. Tutte le mattine passava il portone di esecuzione, ne prendevano 25-30, gli davano un picco, i badigli li portavano fuori, poi non ritornavano più, gli facevano fare la buca e dopo li fucilavano e coprivano e rimanevano là. La mattina che eravamo là attaccati ai reticolati, due ufficiali tedeschi cercavano degli autisti, perché allora gli autisti eravamo rari, perché a quei tempi non ve ne era macchina, che era pochi. Nelle condizioni che mi trovavo là mi sono presentato e gli ho detto che io ero uno di quelli, facevo l'autista, e mi ha chiesto da dove eravamo, perché noi trentini con i tedeschi avevamo un trattamento speciale, perché qua prima sapevano che era Austria e perciò appartenevamo a loro. Mi presero e mi dissero mettiti là, dopo ne cercavano quattro e vennero fuori dei miei autisti che erano con me, un certo di Ribaga di Fione, un altro di Tiano, in quattro ci presero e ci portarono a Minsk in Ucraina. In Ucraina là era una specie di, non so, io era un concentramento di macchine militari e bisognava fare manutenzione. Eravamo una quarantina, quattro italiani, e gli altri 36 erano greci, prigionieri russi, ebrei e polacchi. Eravamo controllati dalle SS, però quei sei mesi che abbiamo lavorato là con l'esercito tedesco veramente non siamo stati trattati male, ci davano da mangiare quello che mangiavano loro e dovevamo lavorare 10 ore al giorno. Tanto è vero che 50 anni fa, quando è stata l'inversione dell'euro con la lira, a me mi è arrivato un assegno di 2.500 euro che avevo lavorato per loro in guerra. Dopo 40 anni mi hanno pagato perché avevo lavorato in guerra. Guarda che cosa. Tanto è vero, non volevo neanche andare a riscuotere. Invece il banchiere mi ha detto, no, sono fatti ieri, pensavo fosse una burla. Dico, dopo tanti anni qualcuno si è ricordato. Comunque, là, a un certo momento, 6 mesi ho fatto con loro, in un certo momento è venuto avanti l'esercito russo, i tedeschi hanno dovuto scappare, dovevano fucilarci, non portarci via prigionieri. Però noi quattro italiani e gli altri che erano polacchi, russi e tedeschi, e si trovavano su quel crocevia che le lingue da loro le conoscevano, invece noi quattro italiani ci siamo trovati alla macchia, fuori, così siamo scappati, camminando. Un certo una mattina si dormiva per terra, quando che veniva notte ci siamo trovati circondati dai partigiani polacchi, e ha alzato le mani e abbiamo detto siamo italiani, italiani, vabbè, ci tenete qua. Però i partigiani avevano bisogno di soldi, di viveri. I tedeschi in ritirata, loro facevano saltare i camion di notte per prendere le armi, munizioni e da mangiare. Noi quattro italiani non abbiamo accettato di far guerra. Allora io andavo a prendere l'acqua, un altro pelava patate, quell'altro andava a legna e aiutavamo questa cellula di partigiani polacchi. Noi facevamo i servi di loro, ecco, però non andavamo a far sabotaggio con loro. Dopo 7-8 giorni arrivò avanti l'esercito russo. Allora i polacchi gli dicono: questi qua sono italiani. Ah, italiani, carasco. Allora, italiani, mandolino, prima cosa, mandolino, chitarra e cirichichi. Queste sono state le tre parole che i russi ci hanno detto quando ci hanno preso. Non hanno chiesto né chi eravamo, da dove. No, no, no. Ah, italiani, carasco, chitarra, mandolino e chirichichi. Boh, chitarra e mandolino, lo sapevamo che noi siamo i primi al mondo. Così, non chitarra e mandolino, chitarra e maccheroni. Niente, questo chirichichi siamo riusciti a capire perché l'esercito russo, là in Russia, nei campi di concentramento, ce n'erano tanti italiani scappati qua da Mussolini. E in Russia avevano preso, li avevano presi. E il comando russo li aveva diramati fuori per i campi di concentramento dove erano gli italiani per poter spiegare, per diventare comunisti. Questi italiani, mediti russi là, che andavano dopo, sono dovuti scappare tutti, e cercavano di convincerci, perché in Russia si diceva che si stava bene, che dovevamo collaborare con loro, perché dentro i campi là di concentramento in Russia, quello che ho visto, quello che abbiamo provato, non è neanche da dire. Là ho visto fare cannibalismo, io sono sopravvissuto mangiando rane, topi, patate, tutto quello che si trovava. Perché non ci davano da mangiare, niente, solamente botte. Là, quando ci hanno preso questi russi, da Minsk, in Russia Bianca, a piedi siamo andati fino a Tambov. Tambov era un campo di concentramento, un posto neanche da spiegare, perché là era 30-35 gradi sotto zero. Le baracche erano scavate sottoterra come un tuffo, messe come un tunnel, senza pavimento, tutte sulla terra. E avevamo i castelli, due castelli, uno sopra e uno sopra, e si dormiva in tre con una coperta. E gli altri due a riscaldarsi, farmi il cerchio dentro la baracca, a riscaldarsi col fiato come nell'asinello, il bue di Gesù Cristo. Dunque, sono io l'ho fatto, siamo rimasti dalla primavera, vero? 35, dalla primavera, dall'autunno del 44 fino all'aprile del 45 sono stato dentro Tambov. A Tambov c'è capitato una specie di tifo pedacchiale che nel giro di un mese e mezzo, due mesi, più di 4.000 ragazzi sono morti, tutti fulminati, mangiati dai pidocchi, una cosa neanche da raccontare. Quelli che sono rimasti vivi ci hanno preso, ci hanno fatto fare la quarantena, a un certo momento ci hanno messo su un treno e mi hanno portato nella Russia asiatica, giù da Tashkent, dove era Saddam, in quelle zone là, a lavorare il cotone. Dunque da 30 gradi sotto zero, qui poi eravamo rimasti in pochi, messi su una tradotta, un mese e mezzo di treno, e siamo arrivati a Tashkent, nella Russia asiatica. E là ci hanno fatto piantare il cotone, perché era una zona dove veniva levato il cotone, lavorato il cotone all'autunno, verso i primi di ottobre si cominciava a raccogliere. Alla mattina ci davano due sacchi di giuta e dovevamo, non so io sono come il cotone, una pianta alta circa un metro e mezzo, con tutti dei ciuffi bianchi. E si tirano fuori i ciuffi, si mettevano nel sacco, e quando il sacco era pieno veniva pesato da un russo, e se era il peso che volevano loro ti davano un pezzo di pane in più, e se no ti davano un calcio e li portavano. Comunque così si viveva là. A un certo momento era ottobre, il 13 ottobre, alla mattina eravamo fuori a raccogliere sto cotone e vediamo che arriva nella campagna un russo a cavallo, ma non era neanche un russo perché laggiù usavano andare a cavallo senza sella, e si teneva nel ciuffo del cavallo e gridava: Tagliaschi, davai doma, Tagliaschi, andate a casa. Oh, chi è che ci ricordava più di casa? Ormai lì, quella volta in quando, ti aveva dimenticato tutto, si aveva solo il problema di sopravvivere e riuscire a patimenti e andare avanti per portare a casa la pelle. Comunque, i tagliacchi da Valdoma era vera, in acciapparli, in fatto smettere di lavorare, in a portare in campo, in a fatto su quelle quattro stracci che avevamo, un fatto 5-6 km di strada a piedi per andare alla stazione e mi ha messo sul treno il 13 ottobre del 45 e sono stato sul treno, si era dentro caro bestiame tutto ottobre, tutto novembre fino al 15 di dicembre, 2 mesi, senza mai venire fuori, senza mai farmi la barba, senza lavarmi, non avevamo niente dentro il carro. Quando uno moriva lo mettevamo dietro il bordo, mettevamo sullo straccio e si poggiava sulla testa, perché passava 4-5 giorni prima che i russi si ricordassero e chiedevano quanto caputo, quanti morti. Allora noi gli dicevamo 3, 4, 2, quelli che eravamo dentro. Allora nel carro bestiame avevamo il filo spinato con quelle finestrelle. Loro da fuori con la scala tiravano via il filo spinato e noi prendevamo il morto da qua e lo infilavamo fuori dal finestrino e cadeva giù, fuori. Allora con loro avevano un rampino, tiravano il rampino nella pancia, tiravano il morto, unchiavano un po' di benzina, bruciavano, senza sapere chi era, da dove veniva, niente, niente. Davano fuoco, quando era tutto consumato, fischiavano e il treno ripartiva. E si andava avanti altri 3-4 giorni, fino a che si trovava il binario morto, perché allora era un binario solo. E il treno che andava in su doveva avere le coincidenze con quello che scendeva e loro si mettevano in un binario morto, aspettavano che passi il treno e poi si riprendeva. Così 2 mesi dentro il carro bestiame. Ogni 2-3 giorni un po' di sboba ci davano, cavoli cotti con l'acqua, conditi con i pesci fumicati per farne vincere. Mi lavo per conca la mia urina, non mi vergogno a dirlo, tenevo le, perché mi crepava i gravi e dovevo bagnarmi continuamente, se no di notte durante il viaggio potevamo la lingua e i gravi sui buloni del carro bestiame, così, per tenere fresco la bocca, perché non si prendeva da bere, era solo da sopravvivere. Fino a che siamo arrivati a Vienna. A Vienna i russi ci hanno consegnato agli americani. Là è stata la prima volta che ho visto gli americani, non avevo mai visto, sentivo parlare, ma gli americani non avevo mai visto, perché a Vienna a quei tempi era divisa in quattro che avevano occupato, era la parte russa, americana, francese e inglese. Ci consegnarono, mandarono dagli americani, guardate che avete un treno di prigionieri ridotti in quelle condizioni, niente, vennero di una commissione, aprirono i primi due carri, visto nelle condizioni che eravamo dentro, io avevo una barba fino a qua, tutta piena di pidocchi e ogni tanto ci scorravo giù perché era una roba pazzesca. Si sono messi le mani nei capelli, hanno chiuso i carri, ci hanno lasciati là. Allora hanno cominciato a gridare con quella poca forza che avevamo, perché avevamo paura che ci consegnassero ancora i russi. Invece loro avevano visto le condizioni che erano e non si sono neanche avvicinati. Hanno chiuso i carri e ci hanno bloccati tutti dentro. Dopo un po' di tempo sono arrivati una fila di persone, di soldati, con la tuta bianca sulla schiena, una bombola che era piena di diritti. Allora quel famoso DDT che dopo poi è stato tolto perché era un cancerogeno, cosa era, ci hanno chiuso gli occhi, la bocca, le orecchie e ci hanno lasciato solo il naso, hanno messo dei feltrini qua per respirare e ci hanno riempiti con le pompe di DDT. Ci hanno messi dietro il vagone, tutti seduti giù là, morti di fame, col DDT ci hanno come le mummie, bianco, ci hanno fatto rimanere tutto un giorno in pieni di visti. Poi sono venute delle dottoresse con delle pinzette, là hanno preso fuori le uova, a controllare se erano morte. Visto che era tutto morto, allora hanno aperto i vagoni e ci hanno tirati giù. con le mani e i capelli, perché averci nelle condizioni. Ci hanno preso da Vienna, messi su un treno, ci hanno portati a Innsbruck. A Innsbruck là avevano organizzato la barbieria per farci la barba, per tagliarci i capelli, per lavarci, farci la doccia. Però io ero ridotto in condizioni che dovevo essere accompagnato, come erano quasi tutti. Gli americani a Innsbruck ci diedero da mangiare, non so io, di tutto. Misero dei tendi per terra, vuotarono degli autocarri con di tutto, pasta, sigarette, cioccolata. Ci fu gente che morì con un filone di pane bianco in mano, continuava a correre, a ridere e gridare, ma non era capace di mangiarlo. Morivano, venivano disperati, non so io. Mi ricordo che ne ho visti diversi a morire in quelle condizioni. E dall'angoscia a vedere un pezzo di pane, te lo tenevano qua, lo continuavano a carezzare, però non avevano la forza di mangiarlo. Niente, e lì ci tennero due giorni e mezzo. La mattina ci misero sul treno e ci portarono qui a Bolzano. A Bolzano ci fecero scendere un interrogatorio, da dove venivamo, quanti campi avevamo provato, passato, cosa avevamo visto, non li seguiva. Le nostre sofferenze non si potevano dire, quello che avevamo visto di come i trattamenti, la gente che era morto non interessava a nessuno, loro interessava solo se c'erano campi, dove eravamo stati, quanti eravamo vivi e basta. Comunque qua ci fecero una specie di visita, perché tutti quelli che arrivavano dalla parte di là, i più tanti andavano a Merano. A Merano era diventato un lazaretto, tutti gli ospedali, tutti gli alberghi erano pieni di prigionieri che venivano dalla Germania, dalla Russia, e li mandavano là per curare. Qua fecero una visita, a me mi visitarono, e il medico mi dice: ma te dove abiti? Abito qua in Trentino. Ma tu non ti mandiamo mica, sai, a Merano. No, te sei magro, sei ridotto male, perché avevo 28 anni, pesavo 40 kg, 44, però hai tutti gli organi sani, sei solo deperito perché non hai mangiato, perché non hai nutrimento. Ti mandiamo al tuo paese, l'ospedale più vicino, e là fatti curare, vedrai che ti rimetti. E così fu. Io gli dissi che abitavo a un chilometro e mezzo, due dall'ospedale. Là arrivai al mio paese, in ospedale mi tennero per 6 mesi, sotto cura, però mai in ospedale, sempre avanti e indietro da casa, mi accompagnavano continuamente, e piano piano in 6 mesi mi sono rimesso a lavorare. Io ho cominciato a lavorare nell'agosto del 46, sì, perché col gennaio del 46 mi ero in cura all'ospedale di Borgo. Verso agosto, settembre andai a lavorare la prima volta in Val di Non. La prima occupazione che feci me la feci in Val di Non, quando fecero la diga. Là rimasi fino al 1952. Dal 52 al 77 lavorai alle acciaierie, 26 anni. Dopo andai in pensione. Adesso mi sono qua, ho 98 anni, 38 anni di pensione. È stata trasmessa in Germania. In Germania qualcuno l'ha letta, e chi gliel'ha letta erano due ragazzi che erano i figli di quello che mi ha salvato me, che loro non sapevano neanche che suo papà era di Bolzano. Leggendo la mia storia scritta in tedesco in Germania, loro hanno capito, sono venuti qua a chiedere a me. Loro, suo padre si era sposato in Germania, non aveva detto alla moglie che era un italiano, che era qua di Bolzano. Loro sono stati messi al mondo, è venuto due volte in licenza, ogni volta che è venuto in licenza ha fatto un figlio. Poi l'hanno mandato in Grecia mi ha salvato me, però l'hanno fucilato lui. Quando hanno saputo in Germania la storia, i figli hanno detto: adesso andiamo a trovare quello che ci dirà come ha fatto, da dove è venuto mio padre. E sono venuti qua e io gli ho detto: vostro padre era un bolzanino, da Bolzano faceva il soldato a Verona, e da Verona è andato in Austria, ha fatto il soldato tedesco, e da là è venuto in Cefalonia a fare quello che ha fatto. Mi hanno ringraziato, mi hanno detto che per loro almeno sanno chi era suo padre. Posso chiedere una cosa? Lei ha detto che è scappato e che poi si è consegnato a Cefalonia, e c'erano degli altri italiani, quindi si erano salvati di quelli. Dove? A Cefalonia? Sì. Ha detto che poi vi siete consegnati, c'erano degli altri italiani. Sì, sì, che ne era, però tanti li ha collaborati. Tanti collaboravano perché non si sentiva di circostare, perché non gli ne dava da mangiare. Ha collaborato con i tedeschi, no? Collaborato con i tedeschi. Ma quando lavorava con loro? Ma allora era in Russia, non ero qua. No, a Cefalonia, italiani. A Cefalonia? No, non ho mai collaborato. No, gli altri italiani, c'è stati altri che hanno collaborato con i tedeschi. C'erano altri italiani, ma altri hanno collaborato con i tedeschi. Sì, a Cefalonia sì, ne sono stati tanti che hanno collaborato per salvarsi la pelle. Per salvarsi la pelle. Ma poi diceva che è andato col treno, strozzato la Jugoslavia, in Croazia, questo soldato bolzanino che l'ha salvato. Gli altri quattro, siamo arrivati due in Italia. Io e Rivara, quello da Fiano, però quello poveretto era ridotto male, appena arrivato è morto, è stato qua un anno e mezzo neanche dopo è morto. E gli altri due, uno è morto durante il viaggio da Minsk a Tambov, che l'abbiamo tirato per 2 o 3 giorni e dopo ci ha detto: abbandonatemi perché non ce la faccio più. L'abbiamo lasciato là e il russo gli ha tirato un colpo di pistola a piedi, no? E è rimasto là nella steppa. E invece il Rivaga è morto a Tambov, quello è morto mangiato dai pilocchi, e prima di morire quello mi ha detto: guarda che io a casa ho la moglie con un figlio che non conosco, perché il figlio è nato perché suo padre era con me in Grecia. Allora, cosa è successo? Che quando lui è morto, prima di morire, mi dice: guarda che io ho un figlio, una mamma, una moglie, se te hai la fortuna di sopravvivere, quando arrivi in Italia vai a dire la fine che ho fatto. E mi sono ricordato l'indirizzo e quando sono tornato ho trovato la mamma e il bambino e sono venuti con un notaio, io gli ho fatto la dichiarazione di morte e ha preso la pensione di guerra, perché sennò sarebbe stato un disperso come tutti i 150.000 che in Russia hanno lasciato la vita, perché quindi nessuno ha preso e questo soldato italiano proprio con la divisa della Wehrmacht che l'ha salvato, no? È stato fucilato in Croazia dai partigiani. Croati. Sì, gli hanno fatto un'imboscata. Perché loro, quel battaglione là che adoperavano per fare carta bianca, veniva dalla Russia, prima erano stati in Russia. E li portavano, facevano fare quello che dovevano, poi li ricaricavano e li portavano via. In Grecia, quando hanno finito, dopo 48 ore di fucilare, li hanno rimessi sul camion e li stavano portando in Austria. E sono stati attaccati dai partigiani. E là questi camion li hanno ammazzati quasi tutti. Ma c'erano anche italiani sui camion. Eh? anche italiani sono. No, erano solo tedeschi, erano delle SS. Sì, sì. Loro non hanno portato via niente dalla Grecia. No, erano quelli che sono andati per uccidere, erano delle SS. Quelli che hanno fatto lo sterminio erano della Wehrmacht o delle SS? Quelli erano i tedeschi che sono venuti a Cefalonia e hanno sterminato da Wehrmacht. Ci siano tutti da Wehrmacht, non era la scelta. No, volevo. Avevo letto, c'era famoso Casa Rossa, a Cefalonia. La Casa Rossa. Casa Rossa è stata due migliaia di ufficiali. Là non è stato fucilato il soldato, là sono gli ufficiali. Nella Casa Rossa hanno fucilato gli ufficiali. Sì, sono solo ufficiali. Hanno fucilato anche Gandini dentro. Gandini? Gandini non sa che fine ha fatto, non lo sa nessuno, perché non l'ha più trovato. Invece il generale mio, i greci l'hanno seppellito e due anni dopo l'hanno recuperato e riportato in Italia. Sì. Allora, Bruno, scusa, un attimino, devi raccontare due fatti e direi anche simpatici, il fatto del bidone. Il generale Ghezzi del bidone, il generale Ghezzi accanto a, cioè, nel tuo campo c'era un bidone di benzina. Vabbè, ma quello che è via sulla fotografia. Comunque no, ma racconta. Beh, 50 anni dopo, dal 43 al 93, Meffiolo, e mi ha detto: papà, ti porto via, vengo a farti compagnia, ti porto in Grecia dove te ci si va. E allora di volentieri sono andato. Ho tolto mia moglie, insieme alla moglie, Meffiolo, con la Somorosa, che dopo le diventa sua moglie, e siamo stati via un mese. Perché mi ha quei ragazzini che gli davo da mangiare 50 anni prima, mi ha dato l'alloggio e mi ha mantenuto un mese a Cefalonia senza spese. Gli erano 7-8 e tutte le mattine uno mi portava la roba, uno mi portava l'altro, perché mi conoscevi, si ricordava che gli era pochi e veniva lì, moriva da fame, e mi avevo due pagnotte e una che la davo a lui. Niente, dopo tanti anni ne siamo rivisti, lui ha 75 anni, prima che ne aveva 8, dopo che aveva 75 anni. Là a Cefalonia sono stato un mese come moglie e l'ho portata in giro dappertutto e l'ho portata anche sul fortino dove mi ero salvato. Lì dentro del fortino mi ricordavo dove avevo messo le barile, perché a quei tempi la benzina non esisteva tanto per portarla intorno, non era cisterne, ed era trasportata nei bidoni da due torri, fusti di lata. Lì avevo un fusto messo dentro il fortino per far rifornimento alla macchina, perché quando arrivavo là dovevo mettere dentro, avevamo una pompa in dotazione, ci metteva dentro la pompa del bidone e con la pompetta a mano così si fava rifornimento alla vettura. Lì dopo 50 anni mi ricordavo dove avevo il bidone, ho lavorato quasi due ore come fiore a tirar via sale e l'ho trovato, tira su il bidone e ho fatto una fotografia e dopo 50 anni. Poi era ancora il bidone, raggio elettrico italiano. Dopo Bruno, un'altra cosa che abbiamo fatto. Quella di Castelnuovo. Esatto, di Castelnuovo. Allora, a Verona, quando mi ha capato qua a Bolzano, mi ha messo su una tradotta e mi ha detto: dovevamo portarti a Verona a Pescantina per l'interrogatorio. Allora mi ha messo sul treno perché mi aiutava il ferroviere a salire, perché non era più mobile, aveva le gambe atrofizzate. Mi ha messo sul treno, sono arrivato a Pescantina, mi ha tirato e mi ha portato una baracchetta lì e mi ha interrogato un paio di giorni. Finché un giorno, due o tre giorni dopo, ho detto: beh, adesso ti mandiamo a casa. Allora, era anche il bar, quello da sopra il Tiarno, lui smontava a Rovereto, mi dovevo smontare a Trento perché per scappare la Valciugana, che era un altro treno, ma messo sul treno e mi ha detto: quando ti arrivi a Trento guarda che il ferroviere il capo e ti aiuta a scendere e dopo ti aspetti l'altro treno che ti porta a Castelnuovo. Là a Trento mi ha tirato, mi ha messo che ancora la colonna, quando vado in stazione a Trento lo vado sempre di ora dove era 70 anni fa, che non capivo niente. Allora sti due ferrovieri poletti qua a Trento mi ha tirato, mi ha postato lì sulla colonna e mi ha detto: ti adesso ti stai qua fino che arriva l'ora del treno, dopo noi te venimo a parte e mettiamo sul vagone. Vabbè, allora ero in città per terra, la gente passava e mi guardava, chissà cosa gli avrà pensato, perché avevo in testa un colbacco con su qua la faccia e martello, un colbacco con una piastra rossa di verniciata, faccia e martello, ero là così la faccia e martello. La sera era le 4:30, le 5 la sera, però il treno partiva alle 7 perché a Castelnuovo arrivava alle 9:30. Ero visitato per terra, quando sale ora lei il ferroviere, dai che ti aiuto perché parte il treno per la Valciugana, ah, e mi aiuta e mi mette sul treno. Allora le carrozze non è come adesso, le aveva una porta, ogni scompartimento era una porta, erano tutte di legno. Allora mi ciappa e poi mi mette su, mi sento giù là davanti, qua che avevo la porta, e ogni tanto mi attaccavo della manita perché mi pareva di cascare per terra. E parte il treno, arriviamo a Castelnuovo e mi ha fatto dire: guarda che siamo arrivati. Oh, boh. L'era dicembre, la settimana prima del Natale, gli era 50-60 centimetri di neve, un freddo 10 gradi sotto zero. La stazione di Castelnuovo, la gara con una lampadina, viene fuori il boccia là che la comanda, pisa la lampadina e gli mette il timbro, quello della ferrovia, e dopo quello, pum, il pezzo è morto e va. Quando si sta a Castelnuovo, il ferroviere mi fa: ma che siamo arrivati, va bene? Allora gli dice: aiuto a scendere. Vabbè, però le carrozze allora, lei aveva tre scalini, ma da vedere altri, se non c'era l'onda da farlo, oltre andavi per terra. Niente, posso arrivare a Castelnuovo, era alle 9:30, alle 9:15, fa: dai che sei venuto a scendere. Allora, verde la porta, era lì, verde la porta, e mi fa per andare giù, mi aiuta, e il ferroviere, e mi ha capato per il cravattino qua, e mi accompagnava giù dal carro, giù dalla carrozza. Però i scalini erano tre, lui mi accompagnava per due, l'ultimo scalino non restava da accompagnarmi, perché aveva freddo qualcosa, la sede mora, c'era la porta e il mamma là. E mi sono da giù, sono cascato così in rio, in mezzo alla neve, sono restato là. Le 10 di sera, 10 gradi sotto zero, 50 centimetri di neve, là dovevo morire, perché era le 10 di sera. Nessuno mi passava, la stazione là è 500 metri dal paese, fatalità quando io non ho andato a morire, non muore, fatalità il paese che era una segheria, e sta segheria tutte le mattine la preparava due o tre carri di legname che passava il locomotore e lo portava via. Quella sera là era l'unica osteria del paese in quattro, mi giocava a 7, e il capo fa: donna, stanotte, domani mattina porta via i carri, e avevo ancora le etichette in ufficio da attaccare sugli indirizzi dove dovevo andare i vagoni, e bisogna andare ad attaccare, mettere su. L'era le 10 della sera, poi smette da dublare, ciappa le etichette, il vento, gli erano due, uno si chiamava Guadagnini e uno Gito, adesso Vito Fiori, che la storia la sa, quando mi vede che vado le festa, niente, questi due, i vadoni tacca le etichette, però quando gli è passati andare a ticcare le etichette, gli ha sentito che mi piangevo. Uno, il più piccolo, era Gildo, e gli ha detto a quell'altro: ma qua intorno c'è qualcuno che si lamenta. Quello lo guarda e fa: ma ho saputo chi si lamenta a ste ore qua, sarà qualche animale, no? E là gli ha messo sull'etichetta. Però nel venire in grillo, quello la torna a sentirmi, e allora ha detto: guarda, aspetta che mi fermo a guardare, perché qua intorno c'è qualche dubbio che si lamenta. Allora l'antisan fulminante, quello che aveva la pipa e gli aveva più fulminati di legno, l'antisan fulminante la comincia a girare intorno a guardare, Oltre le passare vicino a me, mio marito l'ha fatto il martello. E l'ha detto, ostia, che qua un brusco. Tale quale parola. E mio capia, ero là così che tendevo. Madonna, come il russo, madonna. Come il fiore scimmio di Bertogli. Quello torna a pisare la cortina. Ho scelto, ma sì, davvero, sì, è bruno. Allora fa quell'altro. No, no, non è russo, madonna, lei è italiano questo qua. Perché volete che sono mica vieni dalla Russia? Perché era visto che la faccia martello. Allora dai, dice che ti accompagno, ma non sono buono a camminare. Allora uno era più robusto e dice, ti ha visto le spalle. Allora il più piccolo mi ha aiutato da su. Io mi sono messo a braccio a collo e quell'altro di lì, un piccoletto, mi teneva una mano qua sul sedere per paura che mi molasse via perché non avevo forza. E mi ha portato in osteria, l'unica che era al paese, era alle 10 di sera, in 5 minuti era tutto il paese, tutta, tranne che mia mamma non aveva avuto coraggio. Perché non mi pareva vera, la distrutta le corone, i rosari, così, gli ha avuto un frutto. I miei 28 anni che ho fatto le acciaierie, l'unico regalo che mi ha fatto è stato l'esercito italiano mi ha regalato un pugno di medaglie, le acciaierie le ha fatto la luce, è il rumore. Io il signor Bruno ho avuto già occasione di conoscerlo l'altra volta, l'ho già sentito. Io voglio chiedere, io sono figlia di un reduce da cefalonia. E purtroppo, come diceva lei prima, la memoria si deve coltivare perché fa parte di noi, non tanto per sapere. E io questa memoria la sento proprio dentro di me, nel senso che mio padre, quando è tornato da Cefalonia, è un trentino di Primiero, mio padre. Ah, della Val di Primiero. Della Val di Primiero, sì. Perché eravamo diversi trentini. Ecco. Lui non era però nella divisione Acqui, questo l'ho visto dal foglio complementare che... Allora era uno di quei che spartacco il colonnello Vitini. Perché a Corfù no, era proprio a Cefalonia, era proprio a Cefalonia perché ha fatto il fronte francese, poi l'Albania e poi la Grecia. E purtroppo quando lui è tornato nessuno voleva sentir parlare questa povera gente. Mi ricordo la mamma quando lui a un certo punto ha voluto parlare, io sono del 53, la mamma gli diceva dai Romano basta, basta, perché anche lei l'aveva vissuta la guerra, non parlare di queste cose, dobbiamo dimenticarle e lei lo zittiva, però io qualcosa avevo sentito. Poi cosa succede? Che diventi ragazza, vai via per studiare, vai via per lavorare, ti sposi, hai figli, non hai più tempo. Poi quando a un certo punto diventi adulta, vorresti sapere e ti accorgi che tuo papà non c'è più, perché mio papà è morto giovane per un tumore, è morto a 71 anni. Però io in testa avevo tre parole. Avevo Cefalonia, Cardacata, villaggio di Cardacata e famiglia Mattiato. Mio marito, quando abbiamo fatto i 25 anni di matrimonio, mi ha detto noi lo dobbiamo tuo padre, dobbiamo andare là e cercare questa famiglia Mattiato. L'abbiamo cercata, abbiamo trovato due superstiti, anzi tre, una però non si ricordava niente, una qualcosa e uno molto bene, perché mio padre poi a Cardacata era a servizio nella mensa ufficiali e a questa povera gente, questa famiglia Mattiato, aveva dato da mangiare col permesso degli ufficiali. Ecco, questo per fare un po' la premessa. Però come mio padre sia riuscito ad arrivare in Italia io non lo so. So dal foglio complementare che lui è arrivato dal lui è stato sbandato in Albania, preso prigioniero dai tedeschi, dal foglio complementare. Nel foglio complementare dell'eccidio di Cefalonia non si parla, non c'è scritto niente, e lui è arrivato al porto di Taranto nel 1945. Vorrei conoscere qualcuno che vi può spiegare cos'è successo dal 8 settembre 1943. Sembra che si sia buttato, sia andato in montagna, perché Cardacata è un villaggio in montagna. Era dove era il comando di divisione Cardacata. So che c'erano, ecco, il suo tenente è stato per un anno il tenente Cemina Antonio, che poi è genero di Dibuffo, saputo, cioè adesso anche lui è morto, quindi sta. Se qualcuno mi può aiutare a capire cosa gli è successo dopo l'8 settembre? Sembra che se ne sia andato in montagna, che questo superstite della famiglia Matiatos mi ha detto, però aveva 11 anni lui, quindi anche i ricordi sono... Sì, sì, ecco, quindi non so, so solo che in Albania è stato fatto prigioniero e poi è riapparso tanto nel 45. Se voi potete farmi parlare con qualche regole. Allora, tanto per chiudere, io voglio dire due parole di Bertoldi. Bertoldi ha 98 anni e questi giorni gli hanno dato la patente di guida. Patente di guida e va anche ancora in bicicletta. Ma, ecco, vi ringrazio molto e...